Eccoci qua, parte 1 di questa nostra mattinata di questo martedì 27 dicembre. Beh, avete sentito ampiamente nei giornali radio, dunque il titolo del Sole 24 Ore oggi è meno pensioni nel 2011, effetto finestre. Allora, sulle uscite sono 94.000 in meno nei primi 11 mesi, ma l'età media è discesa a 60,2 anni. Questa è il tema, è il titolo scelto dal Sole 24 Ore questa mattina in edicola, centropagina. Poi approfondiremo, diciamo, la fase 2. Domani il Consiglio dei Ministri, primo esame della fase 2, un piano antisprechi da 5 miliardi di euro allo studio del governo, le misure per contenere la spesa pubblica. Insomma, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Entriamo nella fase decisiva, diciamo, di questo secondo pacchetto che poi apre, diciamo, sul tema appunto dei tagli da una parte, delle privatizzazioni. Insomma, ancora moltissima carne al fuoco in questo diciamo interludio tra le feste, per poi arrivare con l'anno nuovo alla definizione dei pacchetti. Ma vi segnalo sempre dalla prima del Sole a centropagina una fotografia che parla di patto antidollaro tra Tokyo e Pechino. Cina e Giappone hanno infatti raggiunto un accordo per effettuare scambi commerciali in yen e yuan direttamente, dunque evitando l'uso del dollaro. Il Corriere della Sera, statali, la truffa dei due lavori. Un'inchiesta del Corriere: nel rapporto della Guardia di Finanza denunciati anche i raggiri ai danni dell'INPS. Migliaia sono sotto inchiesta. Un funzionario, segnala il Corriere, addirittura 62 consulenze e incarichi privati senza alcuna autorizzazione. Sono già 3.300 i casi di doppio lavoro degli statali scoperti dalla Guardia di Finanza. Questa è l'apertura di oggi del Corriere della Sera a centropagina. L'altro grande tema di politica internazionale è l'orrore che purtroppo si rinnova dalla grande Nigeria. Al-Qaeda apre il fronte africano, è il titolo scelto per descrivere ciò che c'è dietro la strage dei cristiani in Nigeria, strage di cristiani resa ancora più odiosa dalla scelta evidentemente ben calcolata del giorno di Natale a Madalla. Prova sanguinosa del fronte Africa aperto dai seguaci di Osama Bin Laden, l'ultimo massacro porta alla rivendicazione del Boko Haram, sigla che vuol dire l'educazione occidentale è peccato e che orna la bandiera dei talebani dell'Africa. Poi torneremo su questo gigante dell'Africa, diviso come appunto diviso e spaccato, lacerato in alcune fasi della sua storia, tra questa violenza che è religiosa ma anche culturale ed economica. Ma vediamo le altre prime pagine, cominciando dal Messaggero: i consumi di Natale a picco, spesi 400 milioni di euro in meno. La crisi ha dunque lasciato il segno nel periodo natalizio, pochi regali e cena e pranzo al risparmio. Secondo il Codacons, gli italiani avrebbero speso 400 milioni di euro in meno per le feste. Dal 2000 non andava così male sul fronte dei consumi, 18% in meno rispetto al 2010. Confcommercio indica nella grande distribuzione, iper e supermercati, i segmenti più in difficoltà, con una contrazione della vendita che oscilla tra il 3% e il 4%. Questo per il Messaggero, che segnala anche un frammento caduto dal Colosseo. Nella fotografia a centropagina le definisce doppio giallo: il frammento caduto dal Colosseo il giorno di Natale non si trova, così come è stata chiusa la terrazza del terzo livello. Anticipazione sul tema che vi ho appena accennato e mi riferisco alla Nigeria, ai massacri di cristiani. Il ministro degli esteri Terzi, intervistato, dice naturalmente difendere i cristiani, ma parla anche di altri scenari, parla anche dell'imminente viaggio del presidente del Consiglio Monti in Libia, un dossier ovviamente molto delicato e importante per il nostro paese. L'ultimo saluto a Giorgio Bocca, il partigiano che raccontò l'Italia, una bellissima foto di Bocca, dietro di lui le montagne appunto tra le sue montagne, come le definisce l'occhiello, la didascalia anzi della fotografia, e il titolo di apertura è invece sulle pensioni, il crollo del 30% e i consumi a picco Natale, ma c'è anche un'anticipazione di un dossier sul quale torneremo tra poco che riguarda l'evasione fiscale, ne abbiamo parlato parecchio e continueremo a farlo. Repubblica questa mattina lo fa con un dossier a firma di Alessandro Penati, dice: il risanamento delle finanze pubbliche italiane è un problema non solo di numeri, di saldi tra entrate e uscite, ma anche di credibilità. Un BTP è una promessa di pagamento dello Stato tra 10, 15, persino 30 anni. Se la promessa non è credibile, gli investitori non comprano. Ed è credibile solo se lo Stato si dimostra capace di fare rispettare le proprie regole. Per questo, oltre che per questioni di equità, indispensabile nel momento in cui si chiedono sacrifici al Paese, oggi abbattere l'evasione fiscale è una priorità assoluta. L'anticipazione dunque del dossier interno di Repubblica. La corruzione dilaga, centropagina. Il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, dà le pagelle alla lotta alla corruzione, dice: in Italia è l'Italia sotto la sufficienza, dobbiamo rafforzare il falso in bilancio. La corruzione dilaga, cambiamo subito le leggi. Questo è Giampaolino, presidente della Corte dei Conti, va rinforzato il falso in bilancio. Vediamo ancora dalle prime pagine il Riformista, crollo consumi e meno pensioni, ma anche lo studio, domani il Consiglio dei Ministri e con Palazzo Chigi che studia l'avvio della ripresa. Per il Manifesto è: povero babbo, la crisi gela i consumi natalizi e appunto spesi 400 milioni in meno per regali, viaggi, festa e cenone. A centropagina poi l'addio a Giorgio Bocca, giornalista partigiano, definito appunto come dire, sottolineato questo elemento della sua centrale della sua vita, ma anche di spalla un dato di cui abbiamo parlato nei nostri giornali radio: dopo l'Italia il Brasile supera anche gli inglesi. Insomma, il Brasile che cresce, che sale, e viene un po' da sorridere pensando che a come fu accolto a suo tempo le preoccupazioni che circondarono l'arrivo di Lula da Silva alla presidenza. Insomma, si immaginava quasi un paese molto, come dire, molto samba, poca economia. Insomma, è accaduto in qualche modo il contrario, e questo sembra continuare con il successore, la presidente Rousseff. Ma altre aperture, Il Giorno, fermateli. In questo caso l'apertura è dedicata a questa fotografia del Papa che appunto accompagnato da un titolo esplicito, fermateli, riferimento ovviamente alle stragi nelle chiese in Nigeria, ma non solamente. Di spalla anche invece la politica, Berlusconi avverte: rimango in pista. Ecco, mentre Berlusconi avverte rimango in pista, questo accade sul Giorno. Per il Giornale invece è: Berlusconi promette, resto sempre in pista. Visto che ci siamo, il Giornale ci dice: effetto Monti, va tutto peggio, Natale pessimismo su, consumi giù. E a centropagina ecco gli sterminatori di cristiani, una fotografia di uomini armatissimi e in mimetiche, a volti coperti, indicati appunto come gli islamici di Boko Haram in Nigeria dichiarano guerra all'Occidente. Ecco, come dire, anche un ritorno di un tema classico almeno per il decennio che abbiamo vissuto, appunto quello della guerra all'Occidente, dei movimenti islamici. Poi vedremo un po' magari anche nelle interviste di capire, anche se come dire, è una parola per la complessità delle circostanze del paese, anche appunto per le dimensioni e per la scivolosità del tema, ma dicevamo di capire meglio che cosa sta accadendo in Nigeria. Libero, togliamo i soldi alla RAI, ci vuole un referendum con un voto popolare, non si può abolire il canone, ma la legge che assegna Viale Mazzini il servizio pubblico, sì, così ogni anno si risparmierebbero 1,6 miliardi di euro. Questa è l'apertura di Libero di oggi, mentre a centropagina ricordo di Bocca, di Giorgio Bocca, un taglio completamente diverso. Pansa ricorda Bocca le mie guerre con l'uomo che negava le BR. Per la stampa, consumi giù, timori per i BTP, ma anche dopo le alluvioni, gli incendi nel Savonese, l'ultimo atto di un 2011 nero per la Liguria. Aiuto, salvate la mia casa dal fuoco. Il grande incendio a Vado, ovviamente in Liguria, raccontato da una fotografia che di fatto mostra i bagliori delle fiamme vastissime nella notte. La grande paura è il titolo dell'Unità e si riferisce, come dire, in maniera anche chiara, l'immagine che accompagna il titolo è quella di una famiglia che fa spese con un carrello. Appunto, mezzo pieno, mezzo vuoto, dipende sempre come si vedono le cose. L'incognita, ma di certo la grande paura c'è, e l'Unità la segnala come titolo di apertura e aggiunge: l'incognita dello spread, cresce il timore che possa vanificare la manovra in piazza per il lavoro e le interviste ai sindacalisti. Siamo quasi alla conclusione della prima parte, ma voglio quantomeno segnalarvi dalla prima pagina della Padania: Monti ci toglie il pane di bocca, crollo degli acquisti alimentari, meno 18% delle nostre tavole. A proposito di pane di bocca, il Fatto Quotidiano dice invece quanto mangia la casta: cene a Cortina, regali di lusso, persino la sconosciuta agenzia del territorio di Gabriella Alemanno spende e spande con i soldi pubblici, dilapidati anche per il ponte sullo stretto che non si farà. Il Secolo XIX, quotidiano saldamente radicato in Liguria, ovviamente l'apertura è sull'inferno scatenato per divertimento. Vado, ragazzini sparano petardi, boschi in fiamme, 300 sfollati, un anziano si ustione per salvare la sua casa. Ultimo titolo della nostra prima parte della rassegna stampa: L'Avvenire, quotidiano dei vescovi, dedicato alla strage di cristiani in tre chiese della Nigeria, al grido del Papa, che poi è il virgolettato che diventa titolo d'apertura: si fermi la mano dei violenti. L'offensiva dei terroristi islamici durante le messe di Natale, Benedetto XVI ricorda le ferite del mondo e invita ad accogliere la mano tesa da Dio all'uomo. Parte 1, qui ci fermiamo, torniamo insieme tra pochi minuti. 24 mattino. Un anno tutto da leggere, rileggere, un anno da, come dire, da ricordare nei passaggi più importanti, anche drammatici. Ovviamente un anno, come dire, con la speranza di trovare anche da leggere, con la speranza di trovare delle chiavi per l'anno che verrà, anno che verrà, che come, insomma, abbiamo letto ampiamente, un anno che preoccupa, un anno che addirittura in alcuni casi spaventa. Ma torniamo dunque alle nostre prime pagine. Tra le segnalazioni che andiamo ad approfondire c'è quella dal Corriere della Sera. Il titolo, ve lo ricordo, è Statali, la truffa dei due lavori. Allora vediamo un po' che succede. Succede, come racconta Fiorenza Sarzanini, che c'è chi timbra il cartellino ed esce subito dopo, chi sbriga in ufficio le pratiche dei suoi clienti privati, addirittura chi accetta consulenze su progetti che poi dovrà valutare, quindi per conto dell'amministrazione. Sono i dipendenti pubblici che svolgono il doppio lavoro senza avere ottenuto nessuna autorizzazione. In questo modo causano un grave danno all'erario. Sono i numeri a dimostrarlo. Negli ultimi 3 anni sono circa 3.300 gli impiegati e funzionari, anche di livello alto, scoperti dalla Guardia di Finanza e dagli ispettori della funzione pubblica a svolgere attività esterne. Hanno guadagnato illecitamente oltre 20 milioni di euro, causando un danno alle casse dello Stato che sfiora i 55 milioni di euro. In una lunga doppia pagina il rapporto della Guardia di Finanza, che viene poi appunto raccontata nelle cifre tra il 2008 e il 2011, racconta di interventi che sono più di 700 l'anno, con un picco nel 2010 a 983 interventi e con sanzioni amministrative contestate per oltre 28 milioni di euro. A questo proposito, dice Sergio Rizzo, sempre sul Corriere, la società italiana ha un disperato bisogno di chiarezza. Uno dei principali freni allo sviluppo è rappresentato oggi dal conflitto di interessi, politici che fanno il doppio lavoro, funzionari pubblici che svolgono sotto banco incarichi privati, fino alle aziende che sono preda dei rapporti incestuosi. Una indagine condotta 2 anni fa dall'antitrust ha rivelato che nell'azionariato del 60,9% delle società quotate alla borsa italiana c'erano soggetti concorrenti, quindi, come dire, ce n'è per tutti, non certo solo per gli impiegati pubblici. Mentre la Sonime, i 2.434 consigliere delle imprese del listino di Piazza Affari avevano mediamente 3 incarichi e mezzo ciascuno, perché in Italia così fan tutti. Questo il commento amaro questa mattina di Sergio Rizzo nell'accompagnare l'approfondimento, l'inchiesta raccontata nelle prime pagine del Corriere in edicola. Dunque, uno dei temi centrali, ovviamente, di queste feste, drammaticamente direi centrale di queste feste di Natale, l'abbiamo detto, la grande strage, la sequenza di attacchi alle chiese cristiane in Nigeria. Sul Messaggero che troviamo oggi in edicola c'è un'intervista al ministro degli esteri, al ministro Terzi, per cui che affronta i diversi temi partendo appunto da questa attualità. L'intervista di Alessandro Di Lellis, che dice: ministro, chi c'è dietro questi attentati su vasta scala? Dice il ministro: è una sequenza che ripete quanto avvenuto lo scorso anno alla vigilia di Natale, e che combina queste azioni di terrorismo nel nord della Nigeria e una serie di altri terribili eventi che hanno colpito negli ultimi 2-3 anni le comunità cristiane in paesi dove sono presenti componenti islamica estremiste. Dunque, i due centri più coinvolti dagli attentati di questi giorni, Bauchi e Yobe, erano già stati teatro di scontri sanguinosi. A Bauchi nel 2009, dopo l'uccisione di Mohamed Yusuf, leader del gruppo Boko Haram, al quale sembrano far capo gli attentati dell'altro ieri. In quell'occasione, spiega Terzi, ci fu un'escalation di guerriglia con 700 morti. La Nigeria soffre molto di un clima di violenza che viene innescato anche da condizioni di sviluppo differenziato e da una realtà etnica, culturale e religiosa che separa il nord dal sud e i 12 stati a legge islamica dal resto del paese. La Nigeria, infatti, è una grande federazione, è lo stato più popoloso dell'Africa, con tassi di crescita appunto demografica impressionanti, una popolazione che supera i 150 milioni, e una divisione netta tra il nord appunto musulmano, legato tradizionalmente alla pastorizia, un sud legato più ai commerci sulla costa, legato a tradizioni diverse. La linea di frontiera, la linea del, diciamo, questo anche di confronto tra queste due realtà, laddove diventano ovviamente violente, cosa che non accade in tutto il paese, è proprio quella fascia a nord e a sud della capitale, Abuja, capitale costruita negli anni 80 proprio per cercare di dare una centralità anche amministrativa a un paese che invece per anni gravitava intorno a Lagos, al cristiano sud. Insomma, una complessità enorme. Vi ricordo che negli archivi di Radio 24 abbiamo anche dei reportage realizzati appunto attraverso la Grande Nigeria. Ma continuiamo col ministro Terzi, perché tocca un altro tema importante, un altro scenario. Dice il ministro Monti: sarà in Libia a fine gennaio. I dossier della missione, chiede Di Lellis, dice: entrambi i paesi puntano alla riattivazione del trattato di amicizia. I dossier sono quelli esplicitati nel trattato economico, della cooperazione sul piano di controllo delle frontiere, immigrazione e dossier della cooperazione universitaria e dell'educazione. Insomma, si riparte da, ovviamente, da quanto definito dagli accordi del governo Berlusconi e dalle trattative a suo tempo del ministro Maroni sul transito controllo dell'immigrazione dall'Africa orientale. Intanto però diciamo questo spunto ci permette di tornare in Libia, a cui oggi Repubblica, pagina 17, dedica un approfondimento. Tripoli, torna la voglia di monarchia, Islam e storia per cancellare Gheddafi. Infatti 24 dicembre è ovviamente la vigilia di Natale, ma per la Libia il 24 dicembre 51 è il momento dell'indipendenza formale e definitiva da colonia italiana. La Libia diventa una monarchia indipendente sotto l'allora sessantenne re Idris. La Libia è rinata per la seconda volta, scrive Veronese su Repubblica. Sabato sera è tornata a celebrare la festa della sua indipendenza, che aveva dimenticato per più di 40 anni. Folle, fanfare, fiumi di gioventù nelle piazze di Tripoli, famiglie in visita tra le macerie di quella che fu la residenza di Gheddafi a Bab el-Azizia, e le consuete raffiche di Kalashnikov che risuonano a tratti un po' inquietanti, un po' liberatorie tra le vie e i quartieri. A festeggiare un passato dimenticato di cui tutti sembrano avere voglia e brama di riappropriarsi. Il 24 dicembre del 51 la colonia, a mai inoltre colore italiano, divenne un libero stato, una monarchia sotto l'allora re Idris. Così fu per 18 anni, finché Gheddafi prese il potere, cacciò il re, fondò la sua repubblica e impose l'oblio su tutto quello che era stato prima che egli diventasse il nuovo padrone della Libia. Ecco, adesso, in queste prime settimane di libertà conquistate al prezzo di 6 mesi di guerra civile e migliaia di vite, tutto ciò che evoca quegli anni lontani e occultati affascina a dismisura i tripolini. I poster con la faccia di re Idris e di suo nipote Hassan, monarca per un giorno prima di essere imprigionato da Gheddafi, vengono incollati sulle vetrine dei negozi. Le bande suonano la marcia reale e anche la bandiera nazionale, abolito il verde gheddafiano, è tornata quella rossa, nera e verde che venne issata per la prima volta la vigilia di Natale di 60 anni fa. Insomma, la Libia che abbiamo seguito nei 6 mesi appunto di conflitto, adesso un po' più lontana dal cuore, dagli sguardi, ovviamente invece costruisce il suo futuro e sceglie quale immagine darsi, ed è interessante vedere appunto nella sequenza di corsi e ricorsi storici come oggi questo paese si rivolga al passato monarchico, a quell'interregno tra il gioco coloniale, in questo caso italiano, e quello che è stato appunto la giamahiria del colonnello Gheddafi. Eccoci qua dunque sul fronte internazionale. Direi di chiudere con il Sole 24 Ore. La notizia ve l'ho segnalata, ma la rileggo. Cina, Giappone, svolta sulle valute, scambi commerciali direttamente in yen e yuan. Ovviamente ci siamo spostati in Oriente con la notizia di una decisione presa dai concorrenti dell'euro da un lato, ma non solamente, ovviamente anche dollaro, un'intesa tra il premier giapponese Noda e quello cinese Wen Jiabao, un patto contro il dollaro, lo definisce Riccardo Sorrentino, o meglio per evitare il dollaro. La Cina e il Giappone intendono effettuare i loro scambi commerciali con pagamenti diretti in yuan e yen senza passare attraverso la valuta statunitense. I due governi favoriranno la nascita di un mercato per le aziende coinvolte in queste transazioni e dall'anno prossimo Tokyo acquisterà bond di Pechino, reinvestendo così la valuta che nel nuovo sistema fluirà dalla Cina. In questo modo si ridurranno i rischi valutari e i costi di transazione nell'interscambio tra i due paesi. Due paesi che hanno annunciato l'accordo ieri con un comunicato che è il risultato della visita del primo ministro giapponese Yoshihiko Noda al premier cinese Wen Jiabao. Si sono incontrati a Pechino. pochi dubbi che l'accordo diventerà operativo. Il patto rispecchia e in qualche modo sostiene le sforze dei manager finanziari, anche pubblici, che cercano sempre più di diversificare i loro investimenti in questa fase di turbolenza creata dalla crisi fiscale europea. La Cina ha accumulato nel tempo riserve valutarie per un valore di 3.200 miliardi di dollari, il Giappone di 1.300 miliardi. Il tema in questi paesi è davvero molto sentito. Sono le 7:45 minuti in questo momento, sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane. Sono le 7:45 minuti 50 secondi in questo istante. Allora, rivediamo un attimo quelle che sono le principali aperture. Dal Corriere della Sera, statali, la truffa dei due lavori, consumi giù, timori per i BTP dalla Stampa, abbiamo... Eccola qua, naturalmente, l'apertura del Sole 24 Ore, meno pensioni nel 2011. Insomma, i grandi temi economici ovviamente sono prioritari, sono al centro della nostra giornata. E stavamo giusto parlando di euro, vi segnalo prima di lasciare letteralmente questa pagina, che è la pagina 12 del Sole 24 Ore, l'analisi di Beda Romano sulla moneta unica. Abbiamo parlato di Cina e Giappone, la svolta sulle valute. L'analisi di Beda Romano è dedicata ai 10 anni, moneta unica solo 10 anni, e già ci si interroga sul suo futuro. Il racconto di quella giornata, alla sede della Banca Centrale Europea, che nel grattacielo di Francoforte, ma anche la riflessione, insomma, su quanto fatto dalla moneta unica. Per molti versi, scrive Beda Romano, la moneta unica ha fatto miracoli, tralasciando per un attimo la fiammata di inflazione coincisa col changeover. Purtroppo però è stata abbandonata a se stessa. In una unione monetaria di stati sovrani, la valuta comune impone ai governi di rafforzare la propria economia. Così non è stato fatto. Molti paesi hanno colpevolmente dimenticato di risanare i conti pubblici e rendere il proprio tessuto produttivo più competitivo. Nel momento in cui si festeggiano i 10 anni dell'euro, ci si interroga nervosamente sul suo futuro. I più ottimisti citano l'esempio americano, quando Mario Draghi ha parlato qualche settimana fa della necessità di un fiscal compact, di un patto di bilancio in Europa. L'attuale presidente della BCE si riferiva probabilmente ad Alexander Hamilton, segretario al tesoro americano, che negli anni 70 del Settecento propose alle colonie britanniche una voluntary compact, un nuovo contratto tra governanti e governati. Qualche giorno prima di Draghi era stato il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn a ricordare che nel 1790, il governo americano decise di assumere il debito dei 13 stati che ai tempi formavano gli Stati Uniti d'America. Dovette in quella circostanza convincere in particolare la Virginia, gelosa della propria autonomia e patria di James Madison e Thomas Jefferson, due futuri presidenti. A molti il parallelo con la Germania è risultato evidente di questi tempi. I riferimenti alla storia americana sono al tempo stesso fonte di ispirazione e atto di speranza. Così scrive questa mattina Beda Romano sul Sole 24 Ore. Ma a proposito di misure, di economia, di pacchetti, vediamo sempre dal Sole a firma di Dino Pesole, si parla a pagina 6 di Spending Review, il piano di tagli da 5 miliardi. Entro aprile, infatti, il programma da inviare a Bruxelles. Entro metà aprile la presentazione del nuovo piano nazionale di riforma e dell'aggiornamento del programma di stabilità, proprio in ossequio al nuovo calendario europeo. E quella, si fa osservare in ambienti del governo, la sede in cui verrà indicato il complesso di misure che il governo intende porre in atto sul fronte della spesa pubblica. Ma già nelle prossime settimane si avrà una prima indicazione sulla direzione di marcia, ricognizione a tutto campo dunque, che verrà condotta in stretto coordinamento tra Palazzo Chigi, con il coinvolgimento diretto del ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, e il Ministero dell'Economia con la regia del viceministro Grilli. Obiettivo? Risparmiare almeno i 5 miliardi di risparmi annui previsti dalla manovra di agosto. La svolta è non agire più sui tendenziali di spesa, in sostanza sulle uscite a legislazione vigente, ma sulle previsioni riferite al consuntivo del 2010. E a proposito della strada per trovare risorse, l'analisi, sempre a firma di Dino Pesoli, di Spalla, dice: se è vero, come ha dichiarato più volte il presidente del Consiglio Monti nelle ultime settimane, che il suo governo non risponde a interessi o pressione elettorale o di consenso, allora è tempo di tentare la mission impossible, riformare abimis la spesa pubblica nel nostro paese, recuperando in tal modo risorse vere e strutturali da destinare al taglio delle tasse a partire dai redditi medio-bassi e a incrementare al contrario la spesa in settori nodali per il paese, quali ricerca e istruzione. Occorrono misure strutturali forti e incisive, non certo tagli lineari. Ecco, non certo tagli che appunto deprimano la spesa, che riducano i consumi e che in qualche modo producano questo racconto di questa mattina, di questa prima rassegna stampa del dopo Natale, che è tutta centrata per la maggior parte dei quotidiani sui consumi che scendono. Lo ricordiamo e andiamo verso la conclusione, proprio ripercorrendo un po' i titoli principali: i consumi giù, i timori per i BTP, per lo spread, l'effetto crisi e in qualche modo sintetizzato, rappresentato da questo cenone in calo ricorrente. I dati parlano di un calo del 18%, i problemi sono in vari settori, ma insomma quello alimentare colpisce anche, impressiona per una riduzione così significativa e dà in qualche modo il senso della difficoltà e della crisi in questo che alcuni colleghi definiscono un Natale da quaresima. E leggo per esempio Lorenzo Salvia che dice: se cambiano i conti a seconda di chi li fa, la sostanza resta la stessa. Durante le prime feste ai tempi dello spread abbiamo speso molto meno che negli anni passati, ed ecco le stime della Coldiretti. Dice: tra cenone della vigilia e pranzo del 25 sono andati via 2,3 miliardi di euro, il 18% in meno dello scorso anno, la cifra più bassa del 2001, e questo probabilmente è un po' quello che resta chiaramente di questo Natale. Bene, siamo arrivati alla conclusione, però visto che abbiamo una quarantina di secondi in più, vi ho letto le testate principali, ma non vi ho dato conto invece delle pagine sportive, allora lo faccio adesso con una Gazzetta dello Sport che, diciamo, in assenza di partite giocate ancora per qualche giorno, dedica la sua prima pagina all'allenatore della Nazionale Prandelli. Dice: Pirlo d'oro e chiamo di Natale. Insomma, propositi per l'anno in corso dell'allenatore della Nazionale, che dice: Andrea Pirlo meriterebbe il pallone, il regista migliore da 10 anni, ovviamente il pallone in questione è quello d'oro. Totò lo convocò contro gli USA e ancora parla di Gigi Buffon, definendolo il portiere più forte del mondo, ma anche una sorta di imprimatur e premio rivolte a Cassano. Dice: l'azzurro 2011 e Cassano mi ha sempre dimostrato una grande felicità di esserci. Un intervento a tutto campo, sapete, il CT della Nazionale non si è mai tirato indietro anche quando si tratta di rispondere a domande che vanno oltre il calcio, giustamente non ci sarebbe ragione per non farlo, e dunque tutta l'Italia di Prandelli, lui dice, sia di Natale i migliori Pirlo, Cassano e Napolitano. Il CT ha più volte dimostrato anche il suo desiderio di fare partecipare la Nazionale alla vita sociale di questo paese. Allora la domanda sul presidente, dice: mi piace, lo rispetto, lo adoro addirittura, è un orgoglio farsi rappresentare ad una persona del genere. Mi hanno chiesto un parere su Monti, ho risposto che mi fido della scelta di Napolitano, il presidente dovrebbe parlare di più, darci più consigli. Come sapete questo diciamo, capita in una giornata in cui non sono mancate anche le critiche invece sull'azione del Presidente della Repubblica, oltre che naturalmente sul Primo Ministro, ma questo giustamente lo trovate tutto nella rassegna stampa oggi in edicola. Bene, siamo in conclusione per questa prima parte. Vi ricordo solamente e vi anticipo, prendendo spunto da un dossier oggi pubblicato dalla stampa, il titolo richiamato in prima pagina è "Allarme carceri, sono disumane, affollamento e degrado, 1000 suicidi in 10 anni. Bene, questo sarà uno dei temi che tratteremo a partire dalle 8:20. Oggi parliamo di Turchia, parliamo dei rapporti complicati tra la Turchia e la Francia in questo specifico, ma insomma in senso più ampio tra Turchia ed Europa, ma poi parliamo anche di pianeta carceri, su una situazione critica di cui vi raccontiamo tra poco. A più tardi allora.